Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Mi verrebbe da dire, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che l'ospite questa volta è una donna che si può dire abituata un po' a comandare a bacchetta, in qualche modo. Però intanto cominciamo a sentire il suo identikit, il suo auto-identikit attraverso tre aggettivi, ospite. Puoi raccontarci un po' quali sono queste possibili definizioni tue? Ma sono sicuramente una persona ossessiva, ma verso me stessa, per cui ossessiva o possessiva? Ossessiva, accidenti. Poi? E poi, giocosa, mi piace fare le cose più strambe. Ma questo sarà molto interessante approfondirlo poi. È così un po' tagliente a volte, un po' quell'ironia, a volte un po' tagliente, mi diverte. Bene. Ho confidenza con le persone. Poi vedremo insomma se qui creeremo questa confidenza. Comunque, bello questo ritratto piuttosto originale di Nicoletta Conti, grande direttrice d'orchestra, una purtroppo delle poche in Italia e nel mondo. Forse in Italia si citano oltre al suo un altro nome o altri due nomi di direttrice d'orchestra, Nicoletta. È così, sì, no? Ancora? È così. Spero non sia così per i prossimi anni. Appunto, ma di riuscire ad aprire qualche varco in più. Perché è vero che essere in poche magari ti dà anche più popolarità, perché c'è meno competizione, nel senso che quando sei tantissimi è un po' più difficile emergere, però so che tu ci tieni comunque a questa cosa, che ne fai una questione molto più generale, di principio, di parità, di pari opportunità, eccetera, quindi insomma speri, no, che nel futuro qualcosa cambi. Ma da quando hai iniziato tu è cambiato, è migliorato qualcosa o più o meno? Diciamo che nel mondo, nell'universo terracqueo è cambiato qualcosa, però in questo nostro paese, in Italia, siamo ancora molto indietro. Non tantissimo, si è parlato molto, ma sì, è un paese dove si chiacchiera molto, come sappiamo. Moltissimo, sì, molto molto. Le chiacchiere sono all'ordine del giorno, i fatti non seguono. E poi anche su questa cosa ci torniamo, ma intanto Nicoletta Conti, dicevo, è direttrice d'orchestra, ha fatto studi di pianoforte, composizione, direzione d'orchestra, poi si è specializzata, a parte aver studiato anche musicologia, in direzione d'orchestra con diversi maestri, tra cui Leonard Bernstein, no? Sì, Nicoletta. Leonard Bernstein, che insomma, è stato l'incontro più importante, più sfavillante della mia vita, perché davvero era un uomo dalle mille risorse, dai mille interessi, oltre ad essere un grande artista. Quindi ancora oggi quando penso a lui, anzi ci pensavo poco fa, perché fra un mese dovrò dirigere due pezzi suoi da Candide, dall'opera Candide. Sì. Pensavo proprio alla versatilità che ha avuto come uomo, perché è stato un compositore, è stato un pianista jazz, un pianista di musica classica, compositore di musical. Un grande talento, solo, geniale, insomma. No? E poi anche un divulgatore della musica come si dovrebbe fare, cioè un vero divulgatore, nel senso di usare quel pragmatismo meno così legato a formule classiche, quel modo di parlare delle cose che arriva, che fa vivere immediatamente l'argomento, il problema. Quindi veramente un grande personaggio. Ecco, quindi se tu dovessi dire, ma l'hai già detto, no, nell'arco della tua vita, della tua carriera professionale, un grande incontro importante, determinante per te, quindi lui sicuramente lo è stato, è il più sfavillante, quindi è bella anche questa definizione. Tra l'altro ti ha portata anche all'Accademia di Santa Cecilia a Roma, no? Sì, poi mi ha portato lì, mi ha fatto debuttare. E poi insomma purtroppo dopo poco tempo è mancato, perché insomma è mancato abbastanza giovane ancora, aveva solo 70 anni, quindi insomma è stata una grande perdita per il mondo intero, io penso. Tu sei stata vincitrice, inutile dirlo, di numerosi premi, uno tra questi il premio Minerva delle Arti che hai ricevuto in Campidoglio, sei stata la prima musicista italiana, no, a riceverlo, sì, questo, sì, premio. E poi sei cavaliere ufficiale della Repubblica, onorificenza, sì, che ti ha dato Ciampi. Non so chi abbia segnalato il mio nome, penso che lo scoprirò un giorno o l'altro. Beh, avrai i tuoi meriti. E poi perché sempre le donne devono essere così, diciamo, modeste, ecco, quando, no, parlano di se stesse? Evidentemente avrei avuto tutti i titoli, no, per questo. No, ma io non ne faccio, non voglio essere sfoggiare della modestia che nessuno secondo me ha in fondo, voglio solo dire che pensare sempre dove sono realmente, dove sono, dove mi trovo, dove voglio andare, Ecco, sono in questo senso emiliana pura, sono abbastanza pragmatica. Infatti, Nicoletta Conti, poi stavo ricordando che ha lavorato con tanti artisti, uno tra questi, uno su tutti, Luciano Pavarotti. Tu sei nata a Bologna. Ecco, ti volevo chiedere proprio che cosa ti porti di Bologna, perché Bologna è una città che ancora, anche se è cambiata, ancora è godereccia, accogliente, socievole, ancora una città con un po' di giocosità, no? Che cosa ti porti? Qualcosa che ha un tratto che ancora questa città, che appunto è abbastanza vivace ed è molto civile rispetto ad altre, a tante altre città, sì. Voglio dire, si vive bene però senza sentirsi costretti in trappole messe dalle regole, per cui ritengo che in Italia sia una delle città dove si può vivere meglio. Poi ho anche altri modelli, se vogliamo parlarne, come può essere Berlino oppure certo. Parigi, una città che mi piace molto. Mm-hmm. Quindi, insomma, non mi fermo a Bologna, però Bologna è la mia città, quindi la rispetto, la amo e insomma, ci vivo perché ho casa, perché ci abito, ecco. Tu prima hai detto, Nicoletta, devi sapere sempre dove sei, dove vuoi andare, eccetera, eccetera, quindi avere il senso anche dei tuoi obiettivi, dei tuoi punti cardine, eccetera, eccetera. Adesso dove vuoi andare lo sentiremo magari dopo. Adesso dove ti senti? Ah, mi sento a un punto della mia vita in cui in effetti posso incominciare a trasmettere qualche cosa che ho così elaborato attraverso incontri come Bernstein, come altri incontri, ma anche elaborato io stessa come musicista, come artista e come donna, perché insomma tutto vive parallelamente sullo stesso filo, secondo me. Storielle. Storiacce. Roberta Giordano sempre con voi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, e sempre con la sua bacchetta un po' in sottofondo. Avevo detto all'inizio, scherzando, presentandola ancora prima di dire il suo nome, che è abituata a comandare a bacchetta nella vita, perché lei è Nicoletta Conti, grande direttrice d'orchestra, una delle pochissime in Italia, una bandiera, e speriamo che ne seguano poi molte, che l'Italia insomma avanzi un po', progredisca un po', visto che nel resto del mondo ce ne sono molte di più di direttrici d'orchestra che hanno anche la direzione artistica di diverse orchestre, teatri, no Nicoletta? Non certo sì, come in Italia. Questo è il punto, direi, da mettere un po' a fuoco. Mm-hmm. Le pari opportunità sono delle vere opportunità se qualcuno le mette a disposizione attraverso un progetto politico, perché bisogna in questo caso parlare di politica. Certamente, certamente. Però finché se ne parla e non si dà questo peso, non si fa seriamente questo passo verso le pari opportunità, penso che non succederanno grandi cose in futuro in questo paese. Invece negli Stati Uniti, nei paesi anglosassoni, insomma, c'è l'applicazione di certe regole presa con molta più serietà, con molta più coscienza sociale da tutti. Questo è il punto. Appunto. No, addirittura in Norvegia c'è una legge che non riguarda le direttrici d'orchestra, ma comunque è sempre... In genere i rapporti tra i sessi e il lavoro. La ministra degli affari sociali sì. Ha messo una regola per cui se nelle aziende non c'è un 50% fra gli alti dirigenti, nel senso di quote donne, sì. Questa azienda deve... ha delle penalità, mi ricordo. Classata, insomma, sì, deve pagare qualche cosa. Vabbè, in Norvegia parliamo veramente di un paese quasi extraterrestre rispetto a noi, ecco. Sì, però l'ho sentita però questa cosa. Vorrei prendere come modello certi paesi, perché... No, ma nel senso, lo dicevo ironico, certo che dobbiamo prendere come modello, altrimenti qui non ci si muove più. Norvegia non è che sia anni luce da noi, no? In realtà poca distanza, e guarda che differenza. Comunque, Nicoletta Conti, tu per fortuna sei riuscita a costruire una bella carriera professionale come direttrice d'orchestra, puoi rappresentare appunto un modello, un punto di riferimento, speriamo per poi tante altre ragazze o donne. Ma hai detto che sei nata a Bologna, e quindi ripercorriamo un po' a ritroso la tua storia. Quando c'è stata l'illuminazione? Ecco, che hai detto, voglio fare questo mestiere. Ma l'illuminazione, se proprio devo tornare molto indietro, a 7-8 anni ho scritto a scuola i temi che dicevano che cosa vorresti fare da grande? La musicista. Ecco, per cui già era un'illuminazione. Poi il mio modello in quel momento era una maestra di piano che io conoscevo. Mm. quindi il mio modello era quindi lo strumento pianoforte, non a caso ho anche studiato pianoforte, mi sono appassionata e proprio non ho mai smesso di studiarlo, infatti mi sono diplomata e ho fatto concerti. E dopo questo percorso si è ampliato, dal pianoforte ho studiato composizione, poi sono passata a direzione di coro, direzione d'orchestra. Quindi l'importanza degli incontri, come dicevamo prima, in questo caso questa maestra di piano, però sono stati i tuoi genitori che ti hanno avviata o sei tu che hai chiesto un giorno? No, voglio... io ho voluto il pianoforte, però non sono mai stata contraddetta e i miei genitori mi hanno sempre aiutata così a fare quello che chiedevo. Anche questo è importante, no? Dei genitori che ti appoggino nelle tue passioni. Perché ci sono tante persone nel mondo dell'arte che non sono state appoggiate dalla famiglia e a volte, insomma, ci sono stati dei contrasti, quindi una lotta è diventata quasi. Un po' interrotti. E poi di lì hai detto appunto, ti sei appassionata al pianoforte, composizione, direzione d'orchestra, ma nessuno ti ha scoraggiata neanche quando hai deciso di specializzarti in direzione d'orchestra? Non ti hanno detto guarda che le donne in realtà sono poche, lavorano poco perché ci sono gli uomini? C'era una giornalista della RAI che mi aveva detto questo, certamente, questo è stato un primo approccio. Poi avevo conosciuto un direttore d'orchestra ungherese che veniva spesso a Bologna a dirigere, che io stimavo moltissimo, che mi aveva detto ma lei al massimo potrà fare la direttrice di coro. Quindi non sono stata proprio aiutata, non mi hanno fatto i punti d'oro queste persone, però ci sono state altre persone che mi hanno incoraggiata, anche maestri che ho avuto. Dicevamo prima Bernstein, quindi che questo incontro sì, così a Milano, determinante. Anche nell'ambito proprio accademico, anche insomma, ho capito subito che il pensiero poteva essere molto variegato rispetto alla direzione d'orchestra femminile. E quindi ho capito subito che la lotta era dura. Molto dura. Sono lottatori nella vita, io credo. No? Per forza. Ma il rapporto con i colleghi maschi qual è? Cioè ti guardano con diffidenza, la paura della competizione? Ah no, una donna, allora... Proprio i colleghi direttori, devo dire che non si appassionano molto al mio problema. Non li ho mai visti strapparsi i capelli per me. I direttori artistici... Alcuni possono essere assolutamente non avere nessuna remora e altri invece sì, per cui anche lì il panorama è molto variegato. Ed invece con le poche donne che fanno il tuo mestiere hai dei contatti, hai avuto dei rapporti di amicizia? Sì, ho qualche contatto, adesso infatti andrò negli Stati Uniti a Pittsburgh, a Baltimora c'è una direttrice d'orchestra molto importante, molto famosa che probabilmente riuscirò a conoscere, si chiama Marin Alsop, è venuta anche in Italia a dirigere ed è forse la direttrice che fa il repertorio sinfonico più importante che abbiamo nel mondo, quindi insomma so che lei ha fatto un grande lavoro con la sua orchestra, ha incrementato il pubblico nella sua città del 40% in 2 anni, quindi c'è anche un pensiero che così a cui posso essere molto vicina. Marin Alsop ha ogni anno una specie di assistente tirocinante donna che sceglie attraverso audizioni. Quindi creare un po' un vivaio, insomma, nella live che la possano cogliere la sua eredità. Senti, leggendo un po' qua e là, in ordine sparso, varie recensioni che hai avuto negli anni per la tua attività direttoriale, leggo così, per esempio, lucida ed energica, bacchetta sicura e brillante, con un gesto elegante e sicuro, senza alcun tentennamento, dirige col cipiglio che coinvolge. Questo tuo cipiglio che coinvolge mia. Forse l'avevo pagato. Dacci un po' l'idea del tuo cipiglio che coinvolge. Sì, no, ci sono critiche, devo dire, di tutti i tipi, per cui anche leggendo critiche fatte ad altri direttori, così, si leggono tante cose. Questa non me la ricordavo, però... Sì. L'ho trovata intensa e simpatica, ovviamente, no? Questa del cipiglio. Tu dicevi prima, quando ti sei definita attraverso i 3 aggettivi all'inizio, che sei ossessiva, ossessiva nel senso che sei una di quelle pignole perfezioniste che chiedono sempre di più a se stesse, questo o altro anche, sì, Nicoletta Conti? Nel perseguire un'idea, prima di tutto, ossessiva. E per seguire quindi l'idea di andare avanti, di continuare, di cercare anche di fare strada alle altre donne attraverso l'esempio. Mm-hmm. Questo mi sembra una bella cosa. Bella e doverosa, io credo, no? Se ne ha coscienza, insomma. E poi sicuramente nello studio, perché lo studio non deve mai mancare, cioè non si tratta solo di aggiornamento, proprio si tratta di studio vero. Io per studio non intendo solo studiare una partitura, intendo studiare dei testi che dal punto di vista culturale mi possano arricchire e possono andare ad arricchire il mio mondo musicale in cui sono immersa in quel momento. Prima ti sei data un po' la zappa sui piedi, diciamo, sempre all'inizio della tua descrizione, perché hai detto che sei giocosa, che ti piace fare le cose più strambe. Adesso almeno due o tre cose molto strambe le devi dire, ce le devi dire qui. Beh, in passato ero un po' agguerrita con lo sci, per cui sono stata anche campionessa regionale, però ho fatto anche gare nazionali, quindi ho sempre un approccio corporeo abbastanza sportivo alle cose. Quindi lo sci, quindi eccellenza anche in quello, insomma, visto che sei stata campionessa regionale. Sì. Poi mi piacciono le sagre, se posso dire una cosa che mi piace molto. Carina questa cosa, è popolare. Sì. Le sagre, soprattutto in Romagna. Ah, beh, poi lì è pieno. È veramente di una solarità che non ne conosco altre. È vero, è vero. Su questo c'è da confermare. Senti, e la tua sagra preferita cos'è? Quella del tortello fritto? No, possono essere anche sagre dove c'è un'idea storica, non proprio quelle culinarie, alimentari. Possono essere anche sagre più interessanti, però comunque mi piace vedere questa dimensione popolare, quindi. Mi piace molto razzolare in mezzo alla gente. Fare questo bagno di umanità. Ecco, allora a questo proposito mi viene anche da chiederti, Nicoletta Conti, ovviamente la vita di un artista è fatta di cose che lo appassionano, lo prendono, lo occupano interamente, però tu ritieni che ci sia anche spazio per altro, per quello che ti è intorno, a parte lo sci, altre passioni, le sagre, eccetera? Tu per esempio sei attenta ai fatti di attualità, alle cose che succedono intorno, o c'è rischio di contaminazione, di interferenze sul tuo mestiere? No, sono attenta, non dico impegnata politicamente, ma quasi, insomma, sono molto attenta, sì. Poi vabbè, mi piace molto il cinema, ma comunque i fatti, anche l'economia mi piace, non ne capisco moltissimo, però mi piace, mi appassiona. Quindi vuol dire appunto sei aperta sul mondo e senza appunto... Ho registrato ad esempio il discorso di Barack Obama quando l'ha fatto, ce l'ho in DVD. Beh, speriamo che almeno lui in certi aspetti possa un po' portare un grande ventata di cambiamento, quella che è un po' l'aspettativa di molti, no? Senti, Nicoletta Conti, poi ricordiamo che lunedì 30 marzo sarai al Forum Cultura d'Impresa organizzato dal Sole 24 Ore, intitolato Talento e Leadership al femminile nelle fasi di cambiamento. In mezzo a tutto questo bla bla che si diceva, no? Che c'è anche tanta ipocrisia in Italia, insomma, pensi che veramente sia utile parlarne, quanto il talento delle donne possa davvero avere l'opportunità di esprimersi, se c'è leadership in Italia al femminile? Io penso che ci può essere oggi anche un nuovo modello di impresa con le donne, fatto, cioè non solo fatto dalle donne, ma comunque con alcune donne al vertice, e penso che questo possa ingenerare un nuovo processo, un modo di accostarsi forse nuovo anche per certi aspetti. Abbiamo già bruciato tutto quel periodo in cui il consumismo è sbocciato ed è andato oltre il muro del suono. Adesso secondo me per forza di cose abbiamo fatto un passo indietro, perché il mondo, lo sappiamo, è in una crisi economica ed esistenziale, globale. Secondo me, e anche morale, certo. Questo è il problema. Certo. Il problema bisogna vederlo forse più da un punto di vista della crisi morale, per cui ripartire dall'educazione, ripartire dalla cultura, ripartire da processi che ingenerano nelle persone aspetti più positivi. E le donne in questo quindi possono fare molto, perché probabilmente meno contaminate culturalmente. Sì. Un po' diverso. No, un po' diverso, sì. In chiusura, Nicoletta Conti, questa che senti è la lampada magica di Aladino. E quindi a questo punto ti dà la possibilità di esprimere per te, per la tua vita, un desiderio. Che cosa chiederesti? I desideri sono tanti. Beh, il desiderio di essere io serena e di dare serenità alle persone che si rapportano con me. Di non essere una persona che si fa inquinare da un mondo dove tutto corre troppo veloce, è più veloce di noi e noi non riusciamo a controllarlo. Ecco, vorrei cercare di mantenere una certa serenità e vivere più il tempo in maniera armonica. Bello questo, secondo me ci riesci e ci riuscirai, Nicoletta Conti. Speriamo. Grazie intanto. Ciao. Grazie, Nicoletta. Ciao. Ciao.